Questa di Barisoni è la storia vera. Ritardò altri 3 minuti quella sera. E Cruciani senza censura, a muso duro, lo mandò serenamente a fare in culo. E noi tutti con la classe di Locascio, te dimo Barisoni, ha rotto il cazzo. La zanzara è veramente, io credo in Dio, ma se dovessi trovare una falla nell'ordinamento è la zanzara, perché non ha un motivo di esistere. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Vogliono assaggiare le baldracche? Vogliono assaggiare il Big Bambù Nero? Vogliono essere schiavazzate come le bestie, no? Perché loro non scoprono, loro fottono come le bestie, come le cimbie, come le bestie, come le cimbie, come le bestie. Ma si deve interpretare la donna. La donna nel sociale deve essere onesta, corretta, educata. Quando si toglie le vesti delle pubbliche relazioni diventa una bestia da sesso, bestia da sesso. La donna la devi sbattere. Se non la sbatti, sai cosa pensa? Sei un cornuto sfigato che ti sta bene le corna. Come le cimbie, come le bestie. Pronto? In diretta sono. Io sono veramente disgustato da quello che conducete, è una radio veramente seria della Confindustria che dà molte informazioni. Pronto! In America, sai che alcuni anni fa un direttore di banca ha molestato una cameriera. E i guai che ha passato, si è giocato la carriera politica che si voleva candidare. Il direttore di banca, il Fondo Monetario Internazionale, non il direttore di banca. Vabbè, allora in America funziona. Sì. Io non so perché la signora Asia D'Argento non ha subito detto questo, perché in America funziona. No, non è D'Argento, è Argento cognome. Com'è? Si chiama Argento. Argento? Non D'Argento. Beh, Argento, vabbè. Sì, sì. È sempre, sempre là. Che paese. Non so se hai riconosciuto la voce del signor, sì, oltre che di Nazi, ovviamente, del signor Mauro da Mantova. Signor Mauro da Mantova, come no, certo. Il quale parlava dei suoi rapporti con le donne, le sue teorie sul genere, sì, femminile. Sì. Il sesso, una trasmissione, e le donne. È una trasmissione che si chiama La Fiera dei Bipolari. Questa è una trasmissione dei bipolari. Ma perché matti, devi dare del bipolare malata. A signor Mauro? Un caro saluto da Nuova York, da David Parenzo. Io quello lo odio con quella voce. Lo odio. No, lo odio. Mi voglio bene, figuriamoci. Allora, subito un regalo prima di entrare nel vivo della discussione su questa vicenda, che ovviamente di cui parla tutto il paese, degli adesivi contro gli ebrei, diciamo pure così, che sono stati affissi, che sono stati messi lì nella curva della Roma. Questo è un errore, non solo contro gli ebrei in realtà. Beh, sono contro l'Europa. Vabbè, contro aspetta, contro gli ebrei. Calma, perché... prima di partire con le tue filippiche, con le tue con i tuoi sermoni. E è con uno sfregio che è stato fatto all'Europa. Uno sfregio all'Europa. Ma questi non sanno manco chi è Anna Frank. Certo. Lo sfregio all'Europa, ma che dici? Andrebbero, no, lo sanno benissimo chi è Anna Frank, una bambina che è morta in un campo di concentramento di Bergen-Belsen. E quindi non si capisce perché dovrebbe essere un insulto ma dire alla tifoseria avversa. Forse perché vogliono che facciano la fine di Anna Frank, forse. Comunque non c'è alternativa, arrestateli. Individuateli, arrestateli e chiudete quella curva in cui sempre di più il confine tra la politica e lo sport, ecco, si sovrappone. Ecco la dichiarazione. Ma che no, cazzo, sì, sei un politico? Bravo, un politico. La dichiarazione da New York. Bravo. Dai. Bravo. No, chiudete la curva. Da Nuova York. Ma in curva, bravo, ci vanno. Chiudete 90... la curva perché sempre di più come Veltroni. Ti ho detto che diceva, perché sempre di più. No, la questione è molto seria, però. Sempre di più la politica e lo sport si sovrappongono. E quindi la dove ridicolo, c'è propaganda, dai. Là c'è il reato, perché qui è la propaganda nazifascista, quindi no, non c'è da ridere, dai, quindi sì. Arrestateli, individuateli e ecco, arrestateli. Hai detto una cosa. E Lotito dovrebbe lui stesso, usando le telecamere a circuito chiuso, ma che c'è dentro lo stadio olimpico. Ma quella è la polizia, che no, c'entra? Dovrebbe lui aiutare ad individuare. Ma quando la polizia dice chi è questo qua, come si chiama questo, il canadese, il minchione, lo sguercio, che poi tutti questi qui c'hanno tutti dei nomi particolari, no? Cioè Franco detto lo sguercio, io non ho, tu dici è normale, io non ho, e poi no, mi fermo, scusami, io non ho amici che si chiamano, che so, Davide Romano detto lo sgambero, no, si chiama Davide Romano, Giuseppe Cruciani, non è che si chiama il guercio, si chiama Giuseppe Cruciani, a casa mia io non ho amici che hanno dei soprannomi, quindi anche questo mi fa molto, è molto curioso, anche questo. Allora, è molto fermo curioso. Di adesso ci torniamo molto. Subito, prima però voglio sentire, ti voglio far sentire, ti voglio subito fare un regalo. Tu hai amici che si chiamano lo sguercio, ad esempio, qualcuno, il canadese, ma i soprannomi Tommaso ci sono sempre, il canadese, no, ma che ma c'è, dai, aspetta, ma dai, aspetta un attimo, prima dai. però la signora dell'INPS, la signora Clementi, Emilia Clementi, contro noi due, contro la Zanzara, contro Cruciani e Parezzi, sentiamo pure. Ora di nuovo, ma ha scritto l'email e ve la pubblico, che l'email è su Radio 24 con Parenzo, mi vogliono a me ospite lì. Gli ho detto che se no. Continuano lì quell'ero, perché si sono fatti loro pubblicità con me, discriminando una persona comune per bene che l'ha fatto questo per i nostri diritti, a prendermi in giro e fare audience. Radio 24 non verrò ospite da voi. Chi non ci prega. Vengo allora. Per farmi dire che fare audience, se avessi voluto, 20 anni che sono nel cinema, potevo fare l'attrice, perché ne ho avuti io proposte per fare l'attrice, ne ho avute tantissime. Ho avuto proposte dal cinema, ma figurati. Allora ragazzi, io dico la mia sulla vicenda Lotito, Lazio, eccetera eccetera. Le responsabilità sono solo individuali. Sono degli adesivi, aspetta, fammi finire. Degli adesivi che sono stati messi per sfregio nella curva della Roma da parte di un gruppo di tifosi della Lazio che erano lì perché il presidente della Lazio, sbagliando secondo me, ma in buona fede credo, ha dato la possibilità a chi era abbonato in curva nord di andare in curva sud. Quelli sono andati in curva sud e per sfregio hanno messo questi adesivi. Siccome le telecamere ormai le abbiamo piazzate anche nel nostro sedere, per usare un linguaggio non consono alla Zanzara, cioè moderato, avremmo dovuto dire delle cose molto più pesanti. Queste telecamere dovrebbero individuare coloro che hanno messo questi adesivi e, se ci sono le leggi, buttarli fuori dallo stadio e accusarli di istigazione all'odio razziale. Fate quello che volete, ma le responsabilità sono individuali. Non ci fate due coglioni così adesso con queste cose che sono una buffonata, che sono sia la maglietta di Anna Frank sulla maglietta della Lazio, che stasera forse la Lazio domani metterà durante l'allenamento, sia i diari non di Anna si Frank azzardino. I diari di Anna Frank non si azzardino. E no, lo fanno per solidarietà. Non si azzardino. Non si azzardino a farlo, è una stupidaggine. Allora, per me è una vergogna. Leggere, il fatto. Basta l'utilizzo di quella immagine. Basta, vergognatevi e state in silenzio. Vergognatevi e state in silenzio. Non fate anche la Lazio, anche Lotito. Adesso vuole mettere le magliette. È andato. Facciano di più contro questi razzisti. Ma che devono fare? Infestano le loro curve. È il primo a essere facciano attaccato. È il la primo. Pagliacciata di adesso scendere in campo con la faccia di Anna Frank. Ma vadano a fare in culo. Ma cosa me ne ma frega? Stiamo andando a fare in culo zitti, uno che viene giocino minaccia... a calcio. No, ma non lui. Non me ne frega niente. Lui faccia quello che vuole. Ma adesso non facciano la pagliacciata di mettersi la maglia. Io non voglio che persone di Canio giocava nella Lazio. Ma che io non voglio persone che in quella squadra c'è stato uno che ha fatto il saluto romano, se non ricordo male, che si chiamava Di Canio. Ma che c'entra? Di Canio, omen nomen, peraltro, omen nomen. Ma che c'entra? Ma sei incoglionito, sei impazzito. Io dico che non voglio persone, il calcio faccia il calcio, non si occupi di politica. La maglietta è... Lazio è una squadra meravigliosa, è una squadra bellissima, quando gioca col pallone, quando giocano in campo, non si occupino di politica. Non mettessero la maglietta con l'immagine di Anna Franco. Basta, esatto, si chiuda drammaticamente questa pagina vergognosa che col calcio non ha nulla a che vedere. Giocate la partita, ma non mettete la maglietta di Anna Franco, è una pagliacciata. Questo sono d'accordo. L'altra buffonata, sono molto serio, aspetta, non scherzo. L'altra buffonata è leggere i passaggi allo stadio dei diari di Anna Franca. Anche questa è una buffonata. L'unica cosa da fare seria è individuare le persone che hanno messo quegli adesivi e portarli a Bergen-Belsen. Portarli al campo di concentramento. La domenica andassero a Bergen-Belsen a spese loro, però questa è la punizione che deve essere fatta. Lotito questo deve fare. Una volta che sono individuati, Lotito non c'entra, poverino. Sì, Lotito infatti non c'entra. La foto di Anna Frank in campo. Quello lo dicevo. Lotito non c'entra nulla, figuriamci. Lo abbraccio fortissimo. Ma l'hai mandato a fare il culo ma il secondo fa? Le persone, ma sì, modo di dire, è un modo di dire, non usassero, è un modo di dire ormai, alla Zanzara si dice così, sì, un'altra volta avrei detto no dai, allora non si metta la maglietta, andate a fare in culo e non mettete la maglietta, l'ho detto con lo stile nostro, in un altro luogo, per cortesia dottor Lotito, potrebbe non far mettere quella maglietta, Lotito oggi davanti alla sinagoga. Annuncio oggi ufficialmente che la Lazio promuoverà un'iniziativa annuale, organizzando per i tifosi, giovani tifosi della Lazio, nel numero di 200 persone, ragazzi, proprio per educarli, un viaggio annuale presso Auschwitz. La cosa più straordinaria è presso, ahimè, Auschwitz. Viaggio annuale di 200 tifosi. Poverino era. No, è bellissimo come parla. Senti questa cosa qua. La nostra dissociazione dall'antisemitismo è stupendo. Anche in queste occasioni rimane sempre Lotito. Senti. Noi oggi siamo qui per testimoniare ancora una volta la nostra posizione di dissociazione nei confronti di ogni e qualsiasi forma di xenofobia, antirazzismo, antisemitismo. La società ha sempre... Cioè, la dissociazione dall'antirazzismo è stupenda. Come antirazzismo? Ha messo tutto insieme. Vabbè, comunque dissociazione dall'antisemitismo, antirazzismo, ha fatto un comunque un fritto misto. Una volta individuati questi miserabili che hanno fatto questa cosa, andassero a Bergen-Belsen, dove è morta Anna Franca, andassero le domeniche del campionato, anziché andare allo stadio, a spese loro, questa deve essere la punizione, perché i 7, 8, 10, non lo so, miserabili che hanno fatto questa cosa, condannati ad andare tutte le domeniche mentre la Lazio gioca, con la possibilità di non seguire la partita, gli vengano sequestrate radioline, come si faceva con Fantozzi, radioline, televisori, iPhone ed iPad sequestrati. Sai che Fantozzi andava a vedere la zona Pontionkin, guardava di nascosto, ecco, vengano sequestrate per 3 giorni durante la partita, specie nei derby, in special modo durante il derby, tutto l'anno, portati nei campi di concentramento di tutta Europa, dal venerdì adesso sei passato al lunedì, da un campo di concentramento loro, a campi di concentramento in tutta Europa, a spese loro, spese loro. C'è tensione, tradimento. La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Naturalmente! Parenzo, invece di prendere per il culo a quella che ha strappato l'Inps, invece di prenderla per il culo, tu ce l'hai coglioni di andare là sotto a fare quello che ha fatto lei? No, perché tu con quei politicanti di merda ci fai gli affari, giusto? Perché ovviamente non ce l'hai i coglioni, perché gli devi leccare il culo, che schifo. Lo dovevo fare a nome di tutti gli italiani. Ho strappato l'Inps oggi, ho strappato l'Inps. Ladri! E fai impazzire. Una cosa incredibile. Ma poi che vuol dire strappare? Perché ha anche l'ansia. No, ma la voce, riascoltandola, no? C'è proprio anche l'ansia. C'è proprio empaticamente, proprio emotivamente allora, coinvolta nello strappo dell'Inps. In alcune radio romane se la prendono con... Mattarella dice per colpa di due adesivi ci si mette pure Mattarella a lavorare la mattina. Sai che è intervenuto pure Mattarella? Sapete com'è? Che poi sì, come, sai come il capo dello Stato. Mi sembra anche eccessivo, dico la verità. No, ti posso dire come la penso? Ma perché non è una cosa grave? No. Ma quattro adesivi di quattro stronzi, di quattro stronzi, quattro adesivi di quattro stronzi. Eccessivo che il capo dello Stato, per fortuna, ha parlato di atto disumano. È intervenuto perché una vicenda che lacera l'identità europea, l'identità italiana. Fammi sentire questo. No, ma è un atto talmente violento. Fammi sentire il popolo. Ma ragazzi, io sto pensando alla la cosa così ridicola che sta accadendo perché tu hai messo degli adesivi al bagno lì su un paio di muri lì della curva. Mattarella. Ma io dico, ma perché non mettete a lavorare la mattina? Una situazione ma che è troppo grave, purtroppo, Guido, è così. Ma è dai, ma grave ma, che tutti. Ma grave di cosa? Mi sembra di riconoscere la voce di uno storico speaker della Lazio che si chiama Guido De Angelis. Grave di cosa? Ci si mette pure Mattarella a lavorare la mattina. Allora, quindi non è grave per questo. Ho capito, ma questa è la sua opinione. Carità, sì, sarà possibile avere un'opinione o no in questo è mondo? Oppure bisogna avere essere un'opinione. Non ho tutti nessun problema allineati, io. Tutti allineati. Figure, voglio in galera le persone che fanno queste cose. Io in galera. Accusati di istigazione all'odio razziale. No, non in galera. Io li voglio che per un anno non vanno più allo stadio. Vanno a Bergen-Belsen, si fanno il tour nel weekend a spese loro. L'abbiamo di capito. Tutti i campi di concentramento d'Europa avanti. Così vedono quanti sono. E andiamo avanti. Allora, voglio farvi sentire quello che ha detto Toscani. Oliviero Toscani, stasera voglio chiamarlo, ma lo voglio inculare però Toscani. Questa volta me lo inculo. Beh, questo non ha è detto una parola... quelli che no, me lo inculo in senso figurato, naturalmente, in senso come dire. È una figura retorica. Ma il signor Toscani ha detto che hanno votato il referendum in Veneto, hanno votato Imona, che significa in Veneto, ricordalo alla gran massa degli ascoltatori, David. Ma Imona è sostanzialmente, se vuol dire corrisponde all'organo genitale femminile, sostanzialmente. Va Imona è un modo di dire vai dei a quel deficienti paese, no? Sarebbero dei deficienti quelli che hanno votato. Sì, dei pirla, traducibile Toscani, con pirla. Toscani, sì. Quindi hanno votato Imona, come si dice in Veneto. Sì, questo qua l'ha detto lei, ma è una verità. Va bene, allora insomma, chi non è andato a votare è intelligente, chi è andato è Mona. Questo è. Direi di sì. Hanno votato quelli isolati in provincia, incestuosi. Votano ste cagate, Toscani. È chiaro che in provincia la gente è isolata, incestuosa, fa tutte queste robe qui e vota queste cagate qua. Ecco. Però un po' gli daremo. Io gli toglierei anche il passaporto italiano che sarà anche. Giovanni da Pescara, vai Giovanni, vai. Ti segnalo che su Amazon vendono ancora, nonostante le proteste, per Halloween, il vestito di una di Anna Frank. Hanno tolto il riferimento ad Anna Frank, ma ancora vendono un vestito per una bambina da 4-6 anni, bambina della Seconda Guerra Mondiale, rifugiata, eccetera. È una stupidaggine di vendere quel vestito lì. Dopodiché io, come sai, ieri ho fatto un giro nel village, sono entrato in un grande store dove vendono vestiti per Halloween e tra poco sarà una festa di Halloween qui molto seguita in America, e ho comprato un vestito da rabbino, ad esempio. Vendono un vestito da rabbino, puoi vestirti per Halloween da rabbino, da prete, eccetera. Però siccome qui sono tanti ebrei, il senso dell'ironia non è contro di loro, mentre fare un vestito da deportato è una cosa di cattivo gusto. C'è una differenza, capito? Giovanni, cattivo gusto. Sì, buonasera a tutti. Allora, e due. Vai, dimmi. Fatto con questo che è successo dei tifosi della Lazio, per me questa è una stronzata, perché non bisogna prendercela così. Guarda, Crucia, quando è successo il fatto là in Francia su Maometto, ti ricordi, no? Cioè, io per ho detto, sono... meno male che vivo in Italia, capito? E qui per due adesivi stiamo stati in una guerra. Abbassa la radio perché c'è la radio accesa, Giovanni, se no ti do una pizza in bocca a distanza. Quando c'è successo quel fatto in Francia su Maometto, no? Ho detto meno male che vivo in Italia, e qua per due adesivi abbiamo fatto peggio, cioè peggio degli islamici. Cioè, ma che cos'è questa storia? Adesso... I politici che scendono in campo, ah, Crucià, per due adesivi, ma che scherziamo? No, io sono in parte, sono in parte. Io penso, sì, scusa, però, amico mio Giovanni, dimmi. Io penso che ci sta una grandissima popolazione italiana che di queste cose non gli interessa, mi stai a capire? No, ma io sono d'accordo con te in parte. Cioè, dico semplicemente una cosa, che sono quattro adesivi prodotti da quattro stronzi, da quattro criminali tra virgolette, che vanno presi, vanno identificati, presi e sanzionati. Punto. Poi tutte le pippe dopo sull'antisemitismo, ma che è l'antisemitismo contro gli ebrei è raffigurato da questi quattro deficienti che vanno in curva, Parenzo? Chiudetele. Accusateli di associazione a delinquere. È possibile che... possiamo distruggere l'ISIS vogliamo distruggere l'ISIS e tentiamo di reprimere il terrorismo e non riusciamo a cacciare quattro deficienti che attaccano gli adesivi in curva? Identificateli. Però io, la polizia lo starà facendo ovviamente. Ecco, fatelo e non ci rompete i coglioni con la retorica. Con la retorica, dai. Lo farà la polizia, qual è retorica? Non c'è nessuna retorica, c'è una condanna unanime. Ma non esiste, non è raffigurato da questi quattro stronzi, dai. Per il tuo cervello scegli il meglio, la zanzara. La zanzara. Fidati di un miserabile. Fidati di un miserabile. Ibrido. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. La zanzara. Caro Parenzo e caro Cruciano, cerca di far diventare questa una vera zanzara. Se no, a questa zanzara lo sai cosa facciamo? Prendiamo il DDT e l'ammazziamo. E sti cazzi! Parenzo, ora ci vuole un segnale forte, forte e inequivocabile. Dopo tanti anni di discorsi, solo discorsi, un segnale fortissimo. Parenzo, assumi sto cazzo di rom! Giuseppe, ciao! Dopo 9 ore di lavoro esco dall'ufficio, la città è bloccata, traffico dappertutto. Ma a me che cazzo me ne frega, c'è la zanzara! Ma ragazzi, ma per davvero... a me pare impossibile, accorgete ora... che i tifosi della Lazio sono nazisti? A me pare la scoperta dell'acqua calda, cioè non capisco ora, adesso hanno pubblicato la cosa di Anna Frank, hanno messo con la maglia della Roma. Cioè, 10 anni fa sono venuti a Livorno, ho scritto livornesi ebrei, nei forni vi brucierei, cioè, ma di Canio che va sotto la urba a esultare per il gol col braccio alzato a far vedere il tatuaggio di Mussolini, saluto romano di Di Canio, cioè, a me mi sembra veramente siate anacronistici. Questo ascoltatore dal chiaro accento livornese, David, dice però una verità. Livorno, sì. Sì, livornese dice una verità acclarata. La di là tifoseria della del Livorno, peraltro, è una delle poche tifoserie di sinistra, se non ricordo male. Ma adesso non so bene come sia finita questa storia. Sì, allora, la questione è molto semplice. Non è una novità. Cioè, sembra che in queste ore tutti stiano scoprendo una cosa nuova. Cioè, che ci sono 30, 40, 50, 200, 300 tifosi nella curva della Lazio, che sono di destra, alcuni sono fascisti, alcuni sono nazisti. Non e è una novità, ma non no, capisco. Ma è la scoperta dell'acqua calda. Potrebbero... Ma che vuol dire? Non è che questo assolve ma tutti, no, non ma vuol dire ma chi nulla, ha detto no? Che deve... Sto dicendo che questo clamore... ma cosa vuol dire che non è una novità? Sto dicendo che se fa clamore perché ancora se fa c'è... Perché per fortuna qualcuno si indigna ma ancora, sì, pensa d'accordo. Se fosse normale. Ma va benissimo. Pensa se... meno male che c'è questo clamore, pensa se considerassimo normale. No, ma mi taccio, ma figurati, però... No, ma ho capito, ma così se uno deve chiudere una curva, se uno deve punire delle persone, ci sono mille occasioni, certo. Lo facciano ogni domenica, se vanno nei cessi, se vanno nei quei manifesti là, quegli adesivi là, sono come le scritte nei cessi degli autogrill. È uguale, è la stessa cosa. Perché altrimenti, se avessero voluto fare una cosa eclatante, avrebbero messo. Io non sto minimizzando, tutt'altro, sono una porcheria. Sono come gli striscioni. Non sono uno striscione, perché qualche volta è successo: uno fa uno striscione e vuole dare un messaggio. Quelle robe lì sono una puttanata fatta per sfregio ai tifosi della Roma. Ed è come scrivere nei cessi dello stadio, di tutti gli stadi d'Italia, le porcherie che ci sono. Cancellassero tutte le scritte allora, in tutti gli stadi. Allora, Renzi ha detto che la Lazio dovrebbe andare in campo con la stella di David sul petto. Per me è una puttanata, vabbè, lo dico, ma dillo anche tu che è una puttanata. È una stronzata la maglietta. Ho detto prima, ma non è che cambio opinione. Ho detto anche prima che la proposta della Lazio, quindi a maggior ragione reputo anche questo, il calcio stia fuori da questa roba. Vengano individuati i responsabili, vabbè, e mandati in visita tutte le domeniche in tutti i campi di concentramento d'Europa. La vostra solidarietà non ce ne frega nulla, perché è vergognoso. Io che un calciatore della Lazio, come Di Canio, che oggi ma che non c'entra mi Di Canio? Lazio, ma che c'entra? Ma l'idea stessa che Di Canio possa indossare la foto di Anna Frank, ma mi non fa Di Canio, mica gioca, che un mica signore, gioca ancora. Ma no, ho detto che l'idea che un Di Canio qualunque, Di Canio, quando fece quel saluto lì, ma che c'entra? L'idea, se lui giocasse ancora, mamma mia, ho detto se lui oggi giocasse e gli fosse, come dire, gli fosse obbligato di mettere la cosa, mi verrebbe da vomitare l'idea che Di Canio si mettesse quella faccia lì. Quindi, vabbè, il calcio stia fuori dalla politica, stia fuori da queste storie, che giocasse col pallone, vincessero lo scudetto, si concentrassero su quello anziché fare le manifestazioni, le cose, va a fa culo. Allora, siccome c'è stato il referendum in Veneto, Quinta Colonna e dalla vostra parte hanno meravigliosamente messo in scena i terroni contro i nordisti. Meraviglioso, stupendo. Napoletano contro Marcato, senti. Allora, innanzitutto devo dire, scatto già il fatto di vedere un leghista, quindi da meridionale ci tengo a dire che effettivamente vedere la Lega, prima questo soggetto qui con questa maglietta, prima il governatore, quindi sicuramente più importante, devo dire, da sempre un male, diciamo, allo stomaco, perché stiamo parlando dei nemici. Beh, non del è che lei sia un campione di bellezza, da 30 anni, e di simpatia, gente che da 30 anni, cioè, lavora per la distruzione dei nostri territori, che lavora per portarci via risorse, per portarci via lavoro. Ma signore che si sta abbracciando lì, a quell'essere lì, a quell'essere lì vorrei chiedere, a quel coso, essere lo dice a tuo fratello, ok? Poi a un certo punto c'è anche Cito, l'immancabile Cito. Ma chi è quello? È un napoletano qualsiasi, non lo so, un tizio beccato lì, messo contro Marcato. Ma chi è quell'intellettuale lì? Alla fine uno era Marcato, un altro era un tizio di Napoli. Sì, quello ho capito, certo. L'altro era Marcato. Poi un altro format, Cito contro Marcato. Cito from Taranto, non un esempio come di limpidezza del sud, bisogna dire, signor Cito, contro Marcato della Lega. No. Una domanda molto semplice. Sì. Tutte le imprese che vengono dal nord nel sud, dove pagano le tasse? Mi deve rispondere qualcuno, no? Di tutti questi. Stia zitto. Dov'è la sede fiscale? Stia zitto. Tutte le imprese. Sto parlando io! Non è che mi faccio paura! Un culo! È fatto dare sede a bacio alla scala, 43 mesi. Allora, che cosa è successo? Provaci. Provaci. Non me la tocca, te la metto in capo. Provaci. Che cosa succede? Provaci. Vabbè, se peggio di interrompere, hanno capito male. Vabbè, se no, io è inutile. Che finisca il suo ragionamento. Provaci. Sergio da Roma, vai, Sergio. Pronto? Dimmi, Sergio, dimmi. Sì, ciao. Volevo dire una cosa a Parenzo. Sì, dimmi. Ma se avessero fatto la stessa cosa con la foto di Harry Potter, ti saresti indignato uguale? Che c'entra Harry Potter? Non ho capito. È la stessa cosa. Che stupidaggine è? Personaggio della fantasia. Non ho capito. Stai dicendo che Anna Frank è un personaggio inventato? Anna Frank è un personaggio della fantasia? Certo. Ma dove lei... Lei che scuole ha fatto? Io? Che scuole ha fatto lei? Che vuol dire che scuola ha fatto? No, ma dove l'hai recepita questa informazione? Dove l'hai carpita questa informazione preziosa che Anna Franco non è mai esistita? Dove l'hai presa? No, l'ho sviluppata autonomamente. Sull'internet praticamente. Bravo, complimenti per i suoi genitori che l'hanno fatta studiare, evidentemente no, complimenti. Soldi ben spesi i suoi, bravo. No, ma lei ha preso questa informazione dall'internet, perché sai che negli anni sono circolate un sacco di cose. Poveretto, mi dispiace per lui. Gli ebrei, che sono un popolo di vittime, risaputo da millenni, che fanno le vittime. Pensa di offendermi? Aspetta, ma lei pensa di offendermi? Lei di tutte e di più, ok? Sì. Hanno erto a simbolo del aspetta, fammi sentire. Hanno erto a simbolo del nazismo Anna Frank, ma Anna Frank non è mai esistita. Quindi mettere la foto di Anna Frank non vuol dire fare antisemitismo. Ah, vuol non dire... è mai esistita, hanno eretto a simbolo del nazismo. Mi spieghi questa frase che ha detto? Ma lei dove ha studiato? Ma i suoi genitori non si vergognano? Non hanno fatto studiare i suoi genitori? Non ti preoccupare, io studio, non ti preoccupare. Ma dove l'hai presa questa informazione? Si vede quanto studi, brutta testa di cazzo. Si vede quanto studi. Quanti anni hai? Ignorante, imbecille. 21. Ridi, ridi, poverino. Bravo, ridere, bravo. Che devo hai fatto una bella, hai fatto una bella battuta. Ho detto che Anna Franca non esiste. Ho detto che Anna Franca hai non hai fatto una battuta. Ma quanto fa ridere? Oscar da Napoli. Oscar da Napoli, questo è un cretino. Dai, Oscar da Napoli. Imbecille, testa di cazzo. Ma va, vai, fa il culo. Oscar, pronto. Vai, dimmi. Abbiamo il numero di questo, vero? Vabbè, ma che ha detto adesso? Io volevo dirti questo. Pensi ai suoi genitori come si sentono in questo momento. Non ho capito, scusa, Oscar. Mi senti? Sì, ti sento, vai. Ok, dando per scontato che l'azione dei tifosi della Lazio è sicuramente di dubbio gusto, ma proprio per non dire di cattivissimo gusto. L'unica riflessione che io vi invito a fare, visto il pandemonio che da bravi italiani abbiamo immediatamente combinato, sì, è farvi un giro in quello che è il museo di Anna Frank, per meglio dire la casa di Anna Frank. Sì. Ad Amsterdam, dove all'uscita del museo sei obbligato a passare nello store e dove nel merchandising della casa di Anna Frank trovi gli adesivi di Anna Frank, i magneti di Anna Frank. No, lui vuole dire che intorno ad Anna Frank c'è una c'è un business. Ho capito, non sappiamo quei soldi dove vanno, magari vanno a qualche opera buona, non lo so. Fondazione, e poi c'è alla anche fondazione, e poi scusami Oscar, c'è al anche al mantenimento del museo, aspetta, alla fondazione, c'è vanno, anche c'è anche Oscar, come dire, non mica ti obbligano a comprare qualcosa, se non vuoi non paghi un cazzo, né uno è obbligato ad andare, né uno è obbligato a comprare nulla, cioè non è che ti sei obbligato a passare dallo store. Vabbè, ho capito, passi dallo store. Se uno gli compri una foto di Anna Frank, altrimenti non la compri e li mandi a fare in culo se non ti è piaciuta la cosa. Cioè, non è che c'è un obbligo a fare questa cosa. Comunque, cioè, è interessante. La logica è che noi in questo momento ne stiamo facendo un caso. Cioè, il vostro radiogiornale ha aperto. Vabbè, ma quello tutta Italia, tutta Italia. Ti credo. No, io credo, no, invece credo. Io credo che sia un'esagerazione, lo dico, ma mica perché voglio minimizzare. Stasera Rai 2 credo che manderà addirittura un film, mi ricordo, Anna Frank. Ragazzi, sono quattro adesivi di quattro coglioni. Sono quattro adesivi di quattro coglioni. Ha una portata molto più forte perché evidentemente. Fermo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la zanzara. Sto parlando io. Non è che mi faceva un I will be the greatest president that God ever created. No. Ciao David, scusa ma non mi ricordo il tuo cognome. Talmente non lo prendo in considerazione che neanche me lo ricordo. Ma chi cazzo ti credi di essere? Denuncio qua, denuncio di là. Ma te sei guardato? Ma chi credi di essere? Ma da dove vieni? Chi sei? Di chi sei figlio? Vergognati, non fai altro che interrompere, che intervenire a sproposito. Datti una calmata, ranocchia, guardati allo specchio. Sei brutto. Ma come cazzo fai a stare ancora lì? Ma chi te paga? La signorina, la signora, anzi, la signora come ti attacca, la signora. Chi è questa simpatica? Chi è questa nonnina di Salò? Chi è questa nonnina? Ma non è, non lo so se è di Salò. Non mi sembrava nemmeno nonnina in questo caso. Non mi sembrava nemmeno nonnina. No, nonnina di Salò. No, comunque me ne frega niente. Sono qui a New York, però a bordo della mia berlina. Non me ne frega niente. Quale berlina? Non c'era, vai in metropolitana là. La berlina. Sono a bordo della mia macola autista nero. Sono a bordo della mia berlina, non me ne frega. Oh, ragazzi, della serie sti cazzi, Scialpi si separa dal marito con cui diceva sarebbe stato per tutta la vita, ma quello lo dicono anche le coppie, come dire, eterosessuali, e con cui dice che avrebbe voluto avere due figli, eccetera. Però della serie sti cazzi. Notizia dei giorni scorsi, però te la voglio ricordare. David, forse te la sei persa perché sei a New York, ma ti riporto indietro nel tempo. Ti ricordi quel meraviglioso jingle realizzato dal qui presente la corte che ti saluta, dello spacciatore davanti alla stazione, davanti alla stazione di Milano, che diceva: io vendere erba qui, vendere erba. Ce l'hai di fronte? No, non ce l'ha. Un attimo, dice, un attimo che lo mette, non è... Non è che risponde ai comandi tipo robot, diciamo, lo deve cercare, no, lo deve cercare tra i file, tra il grande archivio zanzarisco. Io vendere erba, vendere erba. Un caro saluto da Nuova York. Parte. Ti fanno andare a scuola? No! Adesso il capo ce l'hai, scuola non ce l'hai, niente non ce l'hai. Direttore pazzesco! Nella roba pazzesco! Non ce l'hai, non ce l'hai. Allora, questo tizio è stato arrestato nei giorni scorsi. È stato arrestato questo spacciatore, protagonista del nostro jingle. Bene, bene, bene, bene. L'Austria vuole cacciare Soros come persona non gradita. I signori dell'Austria intendono una vergogna, dare un bollo al signor Soros. Non ti dovrebbe stupire, peggio, però, questa cosa. Come negli anni 30, una cosa terribile, una cosa terribile. Un uomo che finanzia il dissenso, i partiti del dissenso, lo ha fatto con evidentemente rompe i coglioni finanziando anche gli anticomunisti. Evidentemente rompe i coglioni ai ma paesi, guarda, democratici. Il signor Soros, che non vogliono... non rompe i coglioni proprio a nessuno. Il signor Soros e la sua fondazione, che si chiama Open Society, cioè Società Aperta, che prende il nome dal suo professore, cioè Karl Popper, che è stato professore di Soros. Soros ha subito la tirannia del nazismo, non ce ne frega un cazzo. E poi la tirannia del comunismo. Bene, e ha sempre combattuto entrambe, sia il comunismo che il fascismo. Basta, non ci rompere i coglioni. Un magnate. Vai, Adriano, dimmi. Un magnate è una cosa positiva, un filantropo, una non è un magnate. Che dedica il suo impegno e i suoi soldi agli altri per poi riaverne indietro il 10 volte di più. No, cosa vuole riavere? No, allora un'informazione, ma niente di ne ha già tanti. Lo stadio olimpico è del CONI, quindi ci vuole niente a vedere le telecamere. All'Europa non gliene frega assolutamente niente, che hanno messo gli adesivi della Roma, della Lazio. Sicuramente il messaggio di Anna Frank non è positivo, ma non credo che all'Europa gli interessi tanto. Poi, piccola curiosità, Parenzo, i cercatori di felicità, no? Tu giustamente li hai nominati o denominati così. Ma anche quindi uno che fa prostitute... L'episodio di Anna Frank cos'è? Niente. Quindi l'episodio di Anna Frank per lei che valore ha? Nessuno. Parenzo, non mi permetto, ho detto il messaggio è forte e va fatto che, ma all'Europa... Sinceramente non gli interessa. Non gli frega un cazzo, dai. Probabilmente in Italia, in questo periodo di antirazzismo, la notizia è stata ripresa da tutti i giornali europei. Ma non c'entra un cazzo, ma che so, i giornali non contano un cazzo. Ma l'opinione pubblica d'Europa non è rappresentata dai giornali. Ancora avete questa fissazione. Ancora i giornali non contano più un cazzo. Diciamola così. I siti di tutta Europa, se vi piacciono di più i siti, di tutta Europa, la notizia l'hanno letta. Parenzo, e anche in Germania ha avuto, come dire, non voglio far spendere troppi soldi al Sole 24 ore. Parenzo, una cortesia. Ma se quelli sono cercatori di felicità, ma anche quelli che vanno a prostitute, non sono cercatori di felicità, tutto sommato. Vecchia cosa che abbiamo già detto. A modo loro sì. Gianfranco da Terni, alcuni tifosi dicono che non faranno un minuto di silenzio domenica. Non si capisce il minuto di silenzio a che cazzo serve effettivamente. No, ma non si capisce il minuto di silenzio per cosa. Ti dico, è una cosa assurda. Basta con queste pagliacciate. Appunto. La figura di merda, gli ultras della Lazio l'hanno già fatta. Tanto non si vergogneranno mai di quello che hanno fatto. Non è che facendogli fare, anzi, si rompe. E non mettete quella maglietta, non sporca la Lazio, faccia la Lazio. Io non voglio vedere una sola maglietta in campo. Questa pagliacciata che fanno, Gianfranco, tanto da non si convincono. Su questo queste sono teste d'accordo. Di cazzo di ultras, non li convinci con sono questo. Sono d'accordo li con te. su questo sono d'accordo. Gianfranco. Soltanto non facendogli vedere le partite. E loro non devono più vedere le partite allo Gianfranco, stadio. Mai più. Sì, quelli che hanno messo il coso, quelli che hanno messo l'adesivo. È l'unica punizione possibile. Gianfranco, beh, vai. Certo, gli altri cosa c'entrano? Ma perché continua a tenere questo coglione di Parenzo, che è una cosa raccapricciante? Buonasera, piacere, molto lieto. Molto lieto. Molto lieto. Grazie. Piacere, molto lieto. Io capisco che buca il video. Sì. Serve, anzi, buca la grazie, radio, no, non è il video, è la radio questa. Grazie per aver chiamato. Buonasera. Guarda, veramente sei raccapricciante. Grazie. Ma che ha fatto? Che ha detto? Piacere, molto lieto. Ma come cazzo si fa a dare importanza? Tutto, ma il telegiornale ha iniziato 5 minuti a parlare di questa idiozia. 5 minuti di questa demenza. Quattro stupidi che hanno piano quattro fotografie da stabare e ci si è montato tutto un dramma mondiale. Un evento successo 70 anni fa, ormai storia. Ma qual è il problema? Paradossalmente è stata una cosa meravigliosa. Perché allora si è tornato a parlare di questa Anna Frank. Ammesso che veramente di cui lei non conosceva neanche l'esistenza della storia. Ah, quindi non è esistita. Ha fatto la sinistra della storia. La sinistra della storia. Ma che c'entra? Ma cosa c'entra la sinistra? Che c'entra, scusami, Anna Franca è esistita però. Ma che anni ha lei, scusi, per capire un attimo. Non lo dico senza nessuna polemica. Parliamo dei partigiani. No, solo per capire, poi continuiamo a discutere di storia con lei. Quanti anni ha lei? Partigiani, non c'entrano i partigiani. Aspetta, fermi tutti, non è andato a cazzo. Allora, Gianfranco, non ho capito. A parte che c'è la voce uguale a Bissani. Comunque. Scusa Gianfranco, ma tu sei un fascista. Fascistone vero o no? Non sono assolutamente un fascistone, è quello che è paradossale, che si parli in maniera indegna di questa cosa ridicola. Quattro deficienti, sicuramente quattro deficienti. Che ma io su questo sono d'accordo con te. Siamo d'accordo, ma non ne parliamo. Ma infatti si colpiscano. Il nostro meraviglioso Presidente della Repubblica, cioè abbiamo italiani che si muovono di fame, gente che vive dentro le palazze, lui dice interviene gente su che ammazza e si mette a intervenire lì su televisione con quella faccia da raccapricciante. Ma che c'entra la faccia? Scusa, non ho capito. Quello c'ha la faccia che c'ha adesso, che c'entra la faccia di Mattarella? Scusa, ma anche sotto aspetto estetico non è presentabile, no? Ma tutto il ma che vuol dire non è presentabile sotto aspetto estetico? Ma di chi parli, di Mattarella o di Gentiloni? Poi non ho capito. Parlo di tutti, no? Tutti ma scusa, tu come cazzo sei? Bello o brutto? Tu che cosa sei? Ma non me ne frega un cazzo, come sono io, sono orribile, ma non è un problema. Tu dici non fai il politico, non ti presenti in televisione. Non mi interessa, capito? Finalmente una cosa vera. Ho capito, quello c'ha un po' di così. Parlare 5 minuti di questa Anna Frank, ma ve ne rendete conto? Peraltro, senta, abbiamo avuto di cosa si occupa legge? Ma sì, no, che c'è stato gli italiani che sono morti sparati avanti il Caporetto, adesso, per carità, ci mettiamo a parlare pure di Caporetto. Morti sparati, italiani a Caporetto. Non parliamo di Caporetto. Caporetto. E poi dopo un'altra cosa, di questo governo di merda, generale, e poi Diaz e Cadorna, cioè, sto Cadorna, cosa vuole sto Cadorna? Cosa vuole il generale Diaz? No, aspetta, i romanisti come Cadorna, cosa c'è? Vuoi parlare con Gianfranco? Allora, Gianfranco. Quando in Israele, durante il matrimonio di due ebrei, hanno mandato la bomba a Hamas e ha ammazzato 7, 8, 10, 15 persone, eventi. Ma che c'entra adesso? C'entra perché il governo italiano non ti ha mai gridato lo scempio di quello che hanno fatto i palestinesi contro gli ebrei. Adesso, per il discorso della Franca, è diventata una cosa che pare che era raccapricciante. Ma capisci qual è il problema? Cioè, tu dici, scandalo, tu dici che Israele, allora, Israele parlato, si comporta. Israele, no, Israele si comporta, il governo italiano il governo italiano che non ha mai preso una posizione decisa su tutta l'azione terroristica che ha fatto Hamas, ok? No, si è mai preso. Vabbè, allora invece adesso sul fatto di quattro deficienti che hanno fatto quattro fotografie sulla Franca e peraltro paradossalmente hanno rilanciato l'interesse su questa storia. Gianfranco, ciao, ti saluto, ciao. Ranocchia, la zanzara. Allora ragazzi, siamo qui con una persona che sta facendo discutere in Veneto e non solo per quello che ha detto, però c'è Franco da Padova, aspetta Toscani, aspetta là, Franco da Padova che deve dirti una cosa, Franco, vai, Franco. Ecco. Sì, sono qua. Puoi dire qualcosa in faccia a Toscani qua, che è collegato. Ma dica a Oliviero Toscani, ma dica in Veneto che mi sono uno di quei mona che ha votato sì? Per l'autonomia. Indipendenza o autonomia, scusa, allora non hai capito. Autonomia, c'era scritto autonomia. Non sa neanche per cosa ha votato. No, c'era scritto autonomia, tutto non capisce niente. Mona sì, ma non servo. Servo come il signor Toscani, che è sempre servo di Radio 24 e gli andava servo bene di Radio 24, servo no? Dei Benetton. Ma servo di cosa? Ma che servo di sì, che? Sì. Che c'entra il servo? Che cosa no, c'entra lui il servo? È un servo che ma servo di cosa? Che gli serve a voi. Ma serve a noi cosa? Ma che dici? No, ma dai, non state lì a discutere, ragazzi, avete capito che ho ragione io quando dico che sei Monaco lì. Dall'alto della sua scienza, sì. Lui può permettersi di offendere tutti quanti i veneti e nessuno dei magistrati, perché giustamente, nessuno, giustamente non ribadito, è vero, Anna Franco, non tutti quanti veneti, non tutti quanti no, veneti. No, tu quelli avevi hanno... detto la prima no, no. volta... Signor Toscani, no, no, non tutti Toscani, quanti, quelli che sono andati detto, a votare. No, tu avevi no, detto la prima volta che detto, tutti i veneti sì. sono ubriaconi. No, un'altra no, cosa. No, no, non è vero. C'è non la vero, registrazione, niente, c'è la registrazione, ecco, c'è la registrazione. Vabbè, fermo là. Assolto, no, infatti sono stato è, assolto. Andate a chiedere, andate a chiedere a quel signore come tratta i ragazzi degli workshop. Cioè, dei, che razza di personaggio dei, è un storco dei workshop. Team, sì, ma parla meglio, se no non capiamo. Puzzolente. Cos'è che dice? Puzzolente, dice che sei puzzolente, non lo so. Cos'è che dice? Che sei, che no, sei un personaggio tutti. Da vomito. Sei ecco, un personaggio, semplicemente sei quello che serve allo Stato italiano per colpire i veneti. Ma scusa, Franco, tu sei per l'indipendenza del Veneto, non ho capito. Io ho le mie idee. No, ma dille, mica ti mandiamo in galera, eh? Mica ti mandiamo in galera. No. Se mi mandate in galera, guarda, divento anche santo, perciò non ho nessun problema. Non ho capito, sei indipendentista o no? Sei indipendentista vostro, o no? Vostro, ma nostro cosa? I veneti nostro. Non vogliono più essere schiavi degli italiani. Ma non parlare è quello il problema. Non parlare in ma io sono veneto, veneti, ma non tu? Me ne frega niente. Schiavo di cosa? Appunto. Io sono veneto, schiavo, ad esempio, non sì, mi riconosco in nessuna delle minchiate che lei ha detto. Perché noi serviamo soltanto all'Italia perché per cosa? Pagare e a un certo punto ma giri il mondo le, ma perché le banche a che cosa sono servite? I fallimenti che cosa sono? Che sono cosa? Dei trasferimenti di soldi sono dei trasferimenti di soldi guarda che la banca uno dei principali responsabili dei fallimenti delle banche è un Veneto che si chiama Zonino. No. Sì, è il presidente. Ma chi c'era secondo e vice? Chi c'era? Comunque, dei terroni, chi c'era? Su queste robe qua. Il problema è che il signor Toscani è una persona indecente, semplicemente indecente, che si diverte a prendere per il culo le persone, appoggiato e poi giustificato. Vabbè, ciao amico mio, ciao. Salutamelo. Sì, come no? Saluto anch'io. Allora, Oliviero Toscani che ha dato dei mona a chi avete è andato a votare. Capito, no? Sì, però avete capito no, come no, sono no. quelli che hanno votato. Ho capito, questo è uno. Hai detto una cazzata, Oliviero, hai detto perché? Una cazzata. Ma che cazzo perché? Vuol dire che quelli che sono andati a votare sono dei mona? Ma che cazzo vuol dire? Sarà senti, un mona quello bambino. Che ha chiamato prima, dai, senti, su. Senti, ascolta. Dai. Tu sei Cruciani, no? Sì, sono bene. Cruciani, certo. Tu pensi dai. Che io abbia detto una cazzata? Mi chiama Radio Padova e vuole la mia opinione. Vabbè, quello che allora, c'entra, chi ti ha chiamato? Sarà libero di dire quello che certo, la sua la propria certo. Ma chiesto l'opinione sui veneti. Ma per me hai detto una cazzata. Per me hai detto una cazzata. Perché bene, chi è andato a votare è un mona. Che vuol dire chi è andato a votare un mona? È uno che ha espresso un'opinione sull'autonomia del Veneto. Cioè, ma dai, ma è un mona, scusa. Ma cosa va a votare una cazzata simile in un mondo che dobbiamo unire? Siamo diventati. Se c'è stata un'evoluzione dell'essere umano è perché ci siamo conosciuti da altri questo, mondi, questo da altri posti. Dai, ma ragazzo, ho capito, ma che c'entra, la, ma che c'entra ma l'autonomia? L'autonomia appunto, ma che c'entra ma che l'autonomia fiscale vogliono, o i soldi? Con l'egoismo del cazzo, primordiale, primitivo, indecente. Cioè, puro indecente. Egoismo del cazzo, tu dici? Egoismo sì, del cazzo. Lo è, egoismo. Cioè, ma tu non ho capito che cosa vorresti? Ancora beh, c'è per esempio, un po' idea vorresti che ancora i più ricchi se ne vanno? Ma e che c'entra egoismo del cazzo? Che... Cosa dividiamo i pezzettini di qua, i pezzettini di là, ma siamo diventati matti. Siamo qua che cerchiamo di fare un'Europa unita, questi mona qua vogliono dividersi. Ma non ho capito perché anche Zai è un mona allora. Ma non lo so io, domandaglielo a lui. No, no, ma io allora di qualcosa, perché è facile dire e sono mona. Ma io non voglio insultare. Se a te, a te che piace. No, chiama Zaia, no, chiama, allora devi dire, devi dire anche Zaia che ha Zaia votato è un mona. Io non so se ha votato o no. Sì, è certo che ha votato, certo che ha votato, è il promotore del referendum, cioè non ha votato, è un mona anche lui allora. Devi dire è un mona anche lui se ha votato. No, non devo dire niente. Ah, non lo vuoi dire perché Zaia, non lo vuoi dire perché Zaia. No, perché sai come funzionano le cose. Quando dici la verità in questo paese ti fanno ma causa. Io rispetto la tua opinione, però mi permetti e di contestarla? Allora, mi permetti di contestarla? Tu non puoi mettere in bocca agli altri. Io non sto mettendo in bocca nulla. Io, coglioni, no, io sto dicendo semplicemente una cosa. Scusa. Se tu hai dato del mona a chi è andato a votare al referendum, devi dare del mona anche al presidente del Veneto, al governatore del Veneto. Io, ma non ho detto questo, lo dici tu. Ma come no? Lo dico lo io. Dici tu. Appunto, lo dici tu. Allora, no, scusa, facciamo un semplice ragionamento logico. Tu dici mona chi è andato a votare al referendum, giusto? Il presidente del Veneto è andato a votare al referendum, dunque un ma mona... non solamente lui, tanti altri, e dunque non è che rivalga di più degli altri. No, d'accordo, però è un mona anche lui, cioè essendo uno che è andato a votare è un mona anche lui, ma non si sfugge. Se tu tiri le somme così va bene, appunto, non si... ma lo dici tu, non dico non fare. Non mettere ma scusami, in bocca ma scusami, adesso io capisco che tu vuoi avere buone relazioni col presidente del Veneto, però ma non voglio nessuna relazione, presidente, me ne frega un cazzo per il presidente del Veneto. Ah, del presidente del Veneto non te ne frega un cazzo, vabbè, d'accordo. Ma no, non gliene frega niente, il presidente del Veneto. No, non ho bisogno del presidente del Veneto. È anche Juventino, scusa. È anche Juventino. Porto uno, ne fanno un altro, come il Papa. È anche Juventino. E allora, dice che potrebbe fare il leader della cosa. È anche un gobbo. È anche un gobbo, sì, per essere gobbo è gobbo. Juventino. E allora? No, ma sai, ma tu dici anche cosa... queste difese. Non è che perché tu oggi hai cagato sei un cagone, hai capito? Ho capito, ma... ti dico sei un cagone. Sì, ho capito, però è facile cagare. Dire mona chi è andato a votare, poi appena ti dico Zaia... Mona, ma io trovo che non si vabbè, può ma anche Zaia mona. Così. Da persona civile. Ma che c'entrano incestuosi? Allora, poi hai parlato di veneti incestuosi, i contadini incestuosi. Che cazzo c'entrano con cittadini? No, la gente che vuole stare solamente fra di loro, non vogliono nessuno straniero che arriva. Alla fine è un sì, gruppo su di incestuosi. Ha ragione. Sono dei incestuosi. Ragazzi, bravo, ha ragione Toscani. Io Oliviero, ciao. Io in questo momento mi trovo a New York. Ma che cazzo che tu conosci perfettamente. Ma che no, voglio dirti questo: sono le due del pomeriggio. Sono le due del pomeriggio. Questa gente qua deve viaggiare di più. Ha ragione Toscani. La gente deve viaggiare, vedere il mondo. Sono dei provincialotti che rimangano lì nel loro piccolo borgo, nella loro piccola. Ma non sono andati a votare tantissimi nelle città, soprattutto un pochettino più evolute. E quelli non sono mona. Sono dei grandi messi a confronto con una tale cazzata che solamente cioè, sono i veri, sono i veri, sono i veri, tu dici quelli che ci capiscono di più, quelli che non sono andati a votare, cioè quelli, logico, quelli che ragionano. Ma questo non è purtroppo vero, il mondo è diviso in questi qua e in mona. Cioè, c'è poco da fare. Cioè, tu dici gli imbecilli e non i ho detto imbecilli. Mona non è uguale, è mona che sono, no, pirla, no, dei no, pirla, mona. Pirla. Ed è no, va bene, non so, di quello che vuoi. Adesso si mette a fare il traduttore. Che ne so, tu sei milanese, pirla dirai, no? Come lo tradurresti, mona? Come lo tradurresti, mona? Anche in Lombardia, allora, quelli che sono da votare sono dei pirla. Non so, io mona è molto ma come più lo bello. Diresti, i lombardi che sono andati a votare, come lo tradurresti in lombardo? I lombardi sono andati a votare pirla, sono dei pirla, pure loro. Ma ragazzi, non è grave, dai. Per carità, mica ha detto niente, ho detto che è grave, dico che semplicemente tu stai disprezzando quelli che sono andati a votare per l'autonomia di Lombardia e Veneto, li stai disprezzando. Così come loro disprezzerebbero me se facesse una cazzata, dai, per favore. Ho capito, tu allora. Fermo là. La zanzara. Allora siamo con Oliviero Toscani che ha definito mona, che significa pirla sostanzialmente, e pirla anche quelli che sono andati a votare per il referendum, la maggior parte hanno votato sì ovviamente, anzi la stragrande maggioranza, a favore del referendum per l'autonomia in Veneto e in Lombardia. Però attenzione, mi segnalano, caro Parenzo, che a New York, voi che siete così cosmopoliti, voi che siete così per l'apertura, come dice Oliviero, per l'apertura, mi segnalano anche... Ma la gente deve viaggiare, apritevi la testa! Mi segnalano anche telefonate... un posto meraviglioso, sì, aspetta, calmo. Mi segnalano anche telefonate di veneti a favore di toscani, non è che ci sono solo quelli contro, naturalmente, per carità. e fra poco li faremo intervenire. Però mi dicono anche che New York, che voi esaltate il paese eccetera, il 97%, il 97% dei newyorkesi non è mai uscito dagli Stati Uniti. Allora, ma che cazzo di modelli avete? È, ma che è una città avete? Cosmopolita, dai, comunque, dai, New York. Su. Questo sto dicendo, poi i coglioni capito, ci sono dappertutto. Detto... Ma New York è una società aperta, Oliviero, cosmopolita, sì, con persone da tutte le parti del mondo. Presa anche... C'è un'energia frizzante. Ma sì, basta questi luoghi comuni! Non ne posso più di questi luoghi comuni! Allora, Toscani ha detto alcuna cosa. I contadini veneti, hai disprezzato i contadini veneti. Ma cioè, non è vero, rispetto... i contadini sono fantastici. Sono come tutte le cose, Frugiani. Ma come non generalizzare fantastici? Sempre, dimostri di essere ignorante. Ma tu l'hai detto, i contadini. I contadini veneti. Infatti, certi americani sono conosciuti per la loro ignoranza. No, è vero o no? Ma che c'è? Non per i coglioni. Domanda ai newyorkesi se non vanno in giro. No, certo che nel Centro America ha votato Trump. Hai detto che Milano le città sono fatte di gente civile perché non hanno votato a favore di Maroni. Ma è logico, ma ha capito come funziona il mondo. E invece dai, in provincia sono tutti dei coglioni, non ho capito. Non tutti, quelli che sono andati a votare, non ho detto sono dei coglioni, quello l'hai detto tu. No, va Mona, bene? Mona, coglioni, pirla. No, guarda che, ma non ha detto però. Una cosa, sì, ha detto preciso, una cosa che tu puoi riscontrare anche in Inghilterra. Ma Mona, ho detto Mona. Ma scusami, ma la differenza tra la città e la periferia? Ma ha ragione Toscani, la differenza no, che c'è tra che città e periferia detto è normale. Che andato a votare. Su, ma a Londra, hai detto in che saresti andato a votare. Hanno votato per la Brexit chi abita fuori e allora Londra. Che facciamo? I londinesi ovviamente eliminiamo hanno votato la campagna. Contro la Brexit. Scusami no? Toscani, eliminiamo ma la no, campagna. Ma c'è una differenza tra città e campagna. Mi fai parlare con Toscani un attimo. Allora che facciamo? Eliminiamo la Toscana, eliminiamo la campagna e così e facciamo votare. Ma secondo te? No, però il cervello. No, Oliviero, scusa un attimo, Oliviero. Secondo te ci deve essere un limite a chi può votare o no? O devono votare no, tutti? O no, devono votare tutti? Tutti possono votare. Allora, tutti possono votare. Un voto in campagna, un voto in un piccolo paesino, vale come un voto a Milano. È inutile che rompi i coglioni su questa certo. cosa qua. No. È logico. Per e allora basta. Lo prendo in considerazione e posso giudicare. Va bene, Cruciani. Allora, lascia parlare la gente. Infatti la ti gente sto lasciando parlare. Non fai neanche parlare. Ma no, come vuoi, no? Vuoi che io dica quello che vuoi tu, mi spiace, io quello che vuoi tu non lo dico. Ma no, ma stai dicendo le stesse cose allora, che dici, non cosa, è che non è che ti cosa, sto ti... No, non è che stai cosa. Scusami sto dicendo. Prima di tutto tu generalizzi sempre questo. Io generalizzo. Hai detto che sono mona quelli che sono andati a votare al referendum. Non ho generalizzato quelli che hanno votato. Quelli che hanno votato. Quelli che hanno votato. Tanti veneti intelligentissimi, molto più intelligenti di te, ricordati. Cioè, tutti i veneti intelligenti non vanno a votare, dici? Non hanno votato quello che hanno votato quei mona lì. E poi sono io che generalizzo. Gli intelligenti stanno da una parte, i cretini dall'altra, i mona dall'altra. Sì, roba così, incredibile. È così. Generalizzo io. Però passiamo a un altro argomento che è interessante. Siccome tu sei sicuramente un uomo di spettacolo e sei sicuramente un uomo spettacolo, inserito. Che spettacolo? Beh, sei nel mondo comunque del. Sei stato nel mondo dello un spettacolo. Uomo di fai il fotografo, un uomo di comunicazione, di spettacolo, eccetera. Va bene. Allora, il caso Asia Argento. A te è successo che qualcuno ti si sia buttata addosso o abbia ti abbia chiesto o abbia voluto scopare con te per fare delle fotografie? Pensa, succede ancora alla mia... no appunto. Allora io trovo, allora vi devo dire una cosa qui. Sì. Hanno preso il più mona, ma il meno colpevole. Io ho conosciuto bene Harvey Weinstein. Sì. Chiaramente aveva sto vizio qui, come hanno tutti quelli, un po' tutti, quasi tutti, diciamo, la gente di spettacolo, produttori. Sì. Però lui era uno che si è sempre battuto per i suoi attori, le sue attrici, va bene? In un modo molto speciale. Hanno tutti vinto dei premi con lui, hanno tutti fatto una grande carriera, va bene? Sì. Erano tutti molto affezionati. Adesso c'è questo fatto della violenza sulle donne, giustissimo, che è venuto fuori e hanno preso il più che pirla. Che vuol dire il più pirla? E lui ha pagato per tutti. Non esiste però la violenza omosessuale, per esempio. No, la violenza sessuale. Omosessuale. Ci sarà anche quella adesso. Sì, certo, assolutamente. No, non c'è ancora. No, ma sicuramente oltre a quello dei produttori che vanno con le donne ci saranno pure gli uomini che vanno con i produttori gay su questo. Hai sentito qualche problema lì? No, ma tu dici che queste cose qui vengono tenute coperte, dici? Ancora sì. Ma io non ho capito una cosa. Questo sport, per esempio. No, ma lui finalmente hanno trovato il capro espiatorio. Ah, è un capro espiatorio, giusto, secondo con me. Con la faccia. No, ma è chiaro che è colpevole, non sto dicendo che è innocente. Cruciani. No, ma io non ho detto niente, ma, se, ma no, ma ho capito, tu stai dicendo che è un capro espiatorio. È un capro espiatorio. Hai detto che tratta dovrebbero andare dentro tanti produttori, tanta gente. Ma secondo te si è trattato di violenza oppure effettivamente, come dicono alcuni, è prostituzione, c'è uno scambio, un interscambio, un out des in questo caso? Spiegami, secondo te. Ma sai, adesso è chiaro, ormai questo è diventato uno sport. Cosa? Dire quello là mi ha violentato, ma sai, io non ho mai violentato in vita mia nessuno. No, questo ci credo, che non hai violentato nessuno. Però qualcuno ti chiede se qualcuno ti ha voluto violentare, però al contrario. O no? Ma no, ma neanche quello. Però ci hanno provato, cioè le donne. Sono sempre stato molto consenziente. D'accordo, dunque tu hai dato del lavoro a qualcuno perché ti sei fatto qualcuno o no? No, io devo dire che non ho mai scopato nel libro paga. Ecco, primo principio da me, non si scopa nel libro paga. Cioè, che vuol dire? Va non bene. Si scopa con le persone con cui lavori? Sì. Nel libro paga vuol dire dipendenti, cosa, la gente con cui lavori, collaboratori. E le attrici? Non cioè, attrici, modelle, persone? No, perché... Cioè, ti no, sarà successo sai, qualche volta, no? Un conto, ma sì, ma un conto è un conto quando decidi consenzialmente di fare qualcosa, ma è un conto dire mi ha violentato, ma dai. Cioè tu, secondo te, Asia Argento non è stata violentata? No, non lo so, non posso giudicare. No, secondo quello che hai letto, è stata violentata oppure si è trattato di uno scambio? Ma non lo so, che ha accettato? Posso tirare a indovinare. No, quella è tua sensazione, da quello che hai letto, ognuno di noi ha letto delle cose. No, ma io credo che forse hanno approfittato, chiaramente. Cioè ha approfittato di uno? Non lei, forse qualcuno ha approfittato di lei perché lei era una che magari voleva avanzare professionalmente, appunto, non lo so, ma cioè io non è stata una convenienza, è stata una convenienza, è stata una convenienza pure per lei, allora. E dopo vent'anni, perché ha confessato dopo vent'anni? Perché ha denunciato dopo vent'anni? Perché adesso si fa, prima non si faceva. Sì, però adesso mi sembra che tu ti stai mordendo la lingua. Ma non è vero, ti stai, sì, ti ma stai no, mordendo la lingua, la tua libertà di espressione sta venendo meno adesso, perché ti stai un po' limitando. Non vuol dire stai, indovinare, perché Asia Argento magari è amica tua, stai lì che ti stai moderando, che ti stai un po' frenando. Assolutamente, Asia Argento non è neanche conosciuta, mi spiace proprio, ti stai sbagliando. No, ma dico, vado a indovinare. No, vai a indovinare, puoi anche indovinare, puoi anche sbagliare. Sì, per carità, assolutamente. No, non posso dare un giudizio. Ti ho dato un giudizio su Harvey Weinstein, dove sì. Ti ho detto è un po' un capo espiatorio. È il meno colpevole. Sta pagando, non il meno, ma sta pagando per tanti altri che sono altrettanto colpevoli. Altrettanto capito? Maiali, ma dicevo, altrettanto maiali. Ehi, questo ma perché può essere, maiali? Ma perché maiali? Così ma è stato dipinto come un maiale. Vabbè, perché c'era un po' la faccia così, se avesse la faccia da George Clooney allora Dunque per te non è un maiale uno che ci prova, diciamo, con tutte no, le attrici? No, Harvey non era un maiale, come l'ho conosciuto io non era E un che maiale. Cos'era? No, era un produttore, fra l'altro, che ricercava una certa qualità di quello che faceva. È uno che ha sempre fatto dei film di qualità, c'è niente da fare, non era un produttore maiale. Ma chi è il Weinstein italiano? Secondo te? C'è uno che può essere avvicinato alla figura di Weinstein in Italia, che ha fatto Cruciani, che non ha fatto... dirmi che ci sono delle ragazze che te l'hanno data, perché sei Cruciani della Zanzara, adesso non ti avrebbero neanche cagato. Ma che cazzo Dai, dici? Non sei neanche bello. Ma che cazzo dici? Ma non credo proprio. Non ti cagherebbero neanche. Come ma non credo proprio. La Zanzara lo so. Ma non credo proprio. Cruciani, ma perché invece ma a te non ti hanno trombato perché sei Oliero Toscani? Ma sono bello. Io ma che sei bello. Non brutto come te. Ma vai a cagare. No, non sei brutto. Ma sarai bello tu. Ma che cazzo dici? Ma sei impazzito. Ma non dire cazzo. Dunque secondo te andavano con Weiss semplicemente per così per convenienza? Ma non è detto, magari in Italia, molto meglio di te. In Italia chi è uno che può essere avvicinato non a Weinstein? Saprei, non conosco produttori italiani. E uomini dello spettacolo? Uomini dello spettacolo? No. Ma non lo so. Senti, ma ho conosciuto tanta gente. Che faresti? Che faresti ai cosi? Che faresti ai tifosi che hanno messo quella cosa su Anna Frank? Allora, diamo importanza a quattro dementi. Bravo, non, su questo sono d'accordo. Diamo, lo so, però non siamo mai lì a giudicare l'intelligenza. Non sono no? quattro, purtroppo. Giudichiamo chi è andato a votare, una scemata. Ma non sono quattro dementi, purtroppo. No, ma lo so, hai ragione, è vergognoso. Ma ho capito, ragazzi, però hai detto una cosa, hai detto non diamo importanza a quattro dementi, ed è così, sono quattro dementi che hanno messo quattro adesivi, sono dei dementi, li identifichino, li puniscano e non ci rompano i coglioni. Dobbiamo renderci conto, e ritorniamo a bomba, che esiste una categoria di mona, dementi, scemi, c'è niente da fare, sì, dobbiamo vero, convivere questo con questo. Scusa, chi c'è da fare? Ho capito, ma allora che fare? Meglio di quelli che hanno votato sono i migranti, sono meglio per esempio in Veneto, sarebbero meglio di quelli che hanno votato per il referendum? I migranti, sai, nei migranti c'è gente molto intelligente. Sì, d'accordo. C'è gente molto più intelligente di te, di me. Ma quello sicuro. E di Salvini, di sicuro. A parte che i migranti hanno affrontato un viaggio. Sto dicendo, e hanno sarebbe meglio mettere in Veneto un sacco di migranti al posto di quelli che hanno votato, dici, no? Ma già ci sono, già non ci sono. Non ho detto questo, ma Cruciani. No, ti sto dicendo, il Veneto andrebbe riempito di migranti, secondo me, sarebbe meglio per cambiare un po' la mentalità. Ma questo già ti ci sto sono, chiedendo. No, ma già gli farà solamente del bene. Cioè, dovrebbe essere solamente del bene. Cioè, ci vorrebbero un milione di migranti in Veneto. A parte che sono più belli dei veneti, anche dei lombardi. Sono più belli di che? Ma che sei impazzito? Più belli dei lombardi e dei veneti? Perché dovrebbero essere più belli? Che sei matto? No, sei tu che l'hai detto. Tu l'hai detto, sono mica io. Ma che sei impazzito? Adesso dice le cose, ma, e poi subito dopo non lo dice. Ma no, matto oggi. Sei tu che l'hai detto. Scusa, non ho capito. Ci vorrebbe un milione di migranti in Veneto? Di più di un milione di migranti. Sì, scambiarli. E come cazzo fai? Come scambiarli con chi? Non lo so io. Ma scambiarli con chi? Ma lo so. Una sostituzione di popolazione. Stiamo facendo un programma comico, no? Allora, sì. Scambiamoli. Va dai, ciao. Ciao. Ciao. Te ti scambierei subito. Vai a cagare, vai tu. Emanuele da Roma. Buonasera ragazzi. Dimmi. Buonasera, senti Giuseppe, io volevo parlare per quanto riguarda il discorso, essendo laziale, per quanto riguarda il discorso dell'episodio veramente increscioso che è accaduto. Non dobbiamo far passare il messaggio, attenzione ragazzi, dobbiamo far passare il messaggio, tanto sono quattro deficienti, quattro idioti. Cioè, prima di tutto, secondo me la FIGC. Ma saranno 10 dovrebbe... per dire 3, 4, per dire 20, 30, 40. Cioè... Ho capito, ma Giuseppe, che c'entra, però? Ragazzi, bisogna, ragazzi. L'individuazione, la responsabilità è personale, altrimenti ma ci mancherebbe altro, certo. Giuseppe, e allora, posso parlare un attimo? Dimmi. Allora, io propongo. Facciamo una cosa, un minuto di silenzio, tutte le squadre ma devono... Ma basta perché, con queste cose. No, ma lo sai perché, Giuseppe, Ma che un minuto bambino, di silenzio per chi? Il bambino, bisogna dare l'esempio perché il calcio è uno sport pulito. Quando il bambino vede il grande campione e quando va allo stadio, c'è cioè, una aspirazione... Ragazzi, ma il calcio deve essere il calcio, non è che dobbiamo fare le buffonate però in campo, ha ragione dai. Questo ascoltatore, quando un bambino va allo stadio e vede... Hai un modello, quando vede il bambino cosa? Va allo stadio e vede ad esempio un Dicanio, vede ancora un Dicanio che fa il saluto romano quando segna, ma quello lì va espulso dal consesso civile, quello lì, ma che scherziamo, Mauro, dice Damato, un'opinione. Mauro, è un'opinione, aspetta, Mauro, dimmi, aspetta un attimo. Aspetta, però cerca di farci capire cosa vuoi dire, perché non si capisce niente, dimmi Mauro. Perché avevo la radio sul sesto sì, smartphone, sul pisello, dove ce l'avevi? Ah, il sesto smartphone. Perché siccome ho solo 8 smartphone, perché uno si è rotto, e 4 tablet. Vabbè, adesso allora... a me non ce ne frega un cazzo dei smartphone. Ma a me non me ne frega un cazzo, se te non te ne frega un cazzo. Perché no, hai messo giù a quel coglione di cose toscane, sto vecchio rincoglionito, sclerotico, e ormai andato fuori. Questo qua è già da mettere lo spizio e buttargli la chiave. Ma perché questo lo spizio? Il coglione. Perché dici? Ma perché deve dare del bamba ai veneti? Ma i veneti se hanno spazio, un loro pensiero e una loro intenzione. Ma lui che cazzo vuole? Che tanto è milanese, sto imbecille. Ha detto pure che sono dei pirla quelli che hanno votato in Lombardia per... Ma c'è la pirla lui! Sono andato a votare subito, al mattino presto, per paura di dimenticarmi, pensa a te. Ma perché ti dovresti dimenticare? Scusa, Mauro da Mantova. Mauro perché da che Mantova. C'ha Mauro da Mantova? Non puoi esprimere un'opinione? No, voglio non dire... puoi esprimere sì, un'opinione? Mauro from New York, Mauro da Mantova. Ascolta. È a New York. Ascolta, come mai che ho letto un post che ha mandato il mio Franz e Luca. Sì, che non so chi sia, non... ma non me ne frega un cazzo a me di Mazzoli e dello Zoo di 105. Non me ne frega un cazzo, lo puoi... cioè sono amici, li conosco, ma non me ne frega un cazzo di parlare di Mazzoli allora, e dello Zoo di 105. Quello che volevo intervenire, ascolta. Ma avete scartavetrato, sì. Cioè, in che senso? Oh, è da quando avevo 7 anni che mi rompevano il coglione con Sanna Frank. Ma avete già scartavetrato il coglione? Sì. Siete già arrivati al calucello. Basta con Sanna Frank. Cazzo, ma che ma cos'è la santa? Era un'ebrea. E beh, allora... giusto o non giusto che l'abbiano ucciso cosa? Era un'ebrea. Come giusto o non giusto? La sua storia, come ma giusto? Mettiamola via. Ma perché giusto o non giusto? Non ho capito perché è giusto. Mettiamo, cioè, stai mettendo in dubbio. Perché c'è gente che ha la libertà di dire hanno fatto bene. E tu che dici? E tu che dici? E tu che dici? E tu che dici? Ma a me non interessa. Ah, non interessa. Non hai il coraggio nemmeno di dire che hanno fatto bene, perché tu pensi che hanno fatto bene a uccidere Anna Frank. Questo è il punto. Ma no, non è che hanno fatto bene. È probabilmente ha vissuto in un periodo che non era il migliore per ma che strano, ecco, bravo, ma che cosa male, bizzarra. Cioè, ma che... sei moderato, si è moderato, ma si è moderato, Mauro. No, io non sono moderato. Si è moderato. Sai cos'è purtroppo? C'è solo un piccolo, una piccola cosa che io non posso digerire, ma mi tocca digerirla forza. Cosa? Un giorno ti spiegherò perché. Se parli male della comunità ebraica sei un cattivo. No, perché... Perché? Se voi andate nella storia, la prima e la seconda guerra mondiale, chi l'ha innescata sono state le banche ebraiche, che hanno distrutto l'economia, prima dell'Austria col governo Weimar, e poi quella della Germania, che voi lo vogliate o no, questa è la realtà. La prima e la seconda guerra mondiale hanno scatenato le banche ebraiche, ha detto. Tu l'hai letta la storia. L'ho capito, veramente. Sì, sì, ha detto. L'hai letta la storia. No, fammi capire che... No, dimentico. Le banche ebraiche hanno scatenato la seconda guerra mondiale. Le banche ebraiche, ho capito bene. Sì, signore. Le banche ebraiche, ho capito bene. L'economia tedesca, chi l'ha distrutta? Ma non lo so, amico mio, le banche ebraiche. Non sono state le banche ebraiche! Basta con questa puttanata! Fermo là, fermo, Mauro, fermo. Ma no, ma tu sei un Paolo imbecille, non conosci la storia? Fermo là. La zanzara. Ma io ascoltavo l'intervento del sindaco di Prato sullo sfruttamento delle prostitute, ma Prato non è mica quel posto lì dove ci sono i cinesi che lavorano nelle fabbriche, come se fossimo in Bangladesh, che ne sono morti un po' alcuni anni fa, un paio di anni fa, in un rogo, rinchiusi dentro alla fabbrichetta. No, perché a me mi sembra che qualche priorità ce l'abbia il sindaco di Prato prima di rompere i coglioni a quelli che vanno a puttane, e sono molto serio. Sono molto serio. Questa è gente che muore sfruttata per davvero. La zanzara. E niente, volevo dirti solo una cosa. Per tutti coloro che chiamano Parenzo, c'è un nuovo modo di chiamarlo. È mantecato di merda. Allora ragazzi, eravamo con Maurone da Mantova, vai amico mio, vai. Allora, intanto voglio dire a quel coglione che c'è lì a fianco, perché lui è un mega coglione. Perché che un mega coglione? La storia non la puoi cambiare, perché la storia è quella, che ti piaccia o no. Le crisi economiche in Germania e prima nella prima guerra mondiale, in Austria, l'ha provocata le banche ebraiche. Ma basta con questa storia, dai, su, no, questa, basta. Ma che le banche ebraiche? Ma che ma sei tutta, una. Ma tu la storia, cosa l'hai scritta? Tu? Ma per te, gli ebrei sono la rovina del mondo, questo è il punto. Cioè, per no, te. È che per me, se una comunità ebraica che ha in mano il 90% delle ricchezze mondiali, e loro sono l'1% di tutta la popolazione mondiale. Allora? Non possono fare l'economia, ma se per fare economia fanno schiattare Chavez col Polonio, per poi dopo mettere Maduro con un colpo di Stato. Fanno, ma chi sono? Gli ebrei? Gli ebrei? No, sono che cos'ha? Non è mica la Goldman Sachs? Ma cosa c'entra? JP Morgan, la Morgan Stanley? Ma cosa c'entra? Soros, quel delinquente di Soros? Interviene tu. Sai che quel delinquente di Soros ha il mandato di cattura in Russia e adesso anche in Austria? Non c'è il mandato di cattura. Perché è una brava persona? Parenzo, intervieni tu, ti prego. Parenzo. No, non è che intervieni. David. Lui sta sta cercando di sostituire noi italiani e il popolo europeo con degli schiavetti a 300 euro al mese, quando invece l'operaio prende 1100-1200. Hai capito il giochetto del signor Soros? Il figlio di puttana? Hai capito? Allora, fermo, ma che cazzo dici? Dai, non dire puttanate. Ma cazzo dici? Ma non dire puttanate, ascolta, dai, ascolta, su. Ma la gente mica è imbecille. David, dove sei? Quello se n'è andato, appena ti ha sentito se n'è andato. David! Beh, perché non mi può combattere sto coglione, perché dico la verità. Ma che verità, non rompere i coglioni, non dire stronzate. Ma dici una marea di stronzate, dai, su. No, sei tu che ti fa comodo. Ma mi fa comodo cosa? Ma di che come ti faceva comodo denigrare me alla 7, ti faceva comodo, che, ma denigrare cosa? Ma che, di che pastiche stai parlando? Ma di che parli? Tu e Parenzo, la mia gola profonda della 7. Ma la gola profonda? Ma quale gola profonda? Ci domandavamo perché continuava a denigrare sto ma la gola profonda chi? Ma di cosa stai parlando che non frega un cazzo a nessuno? Tu ma a me che... non mi devi prendere sì, il culo. Scusa un attimo, che di cosa hai cosa pensi? Cosa pensi? 500-700 milioni di euro. Cosa pensi? Io ne faccio 18.000. Ma stai tranquillo. Ma tu non fai un cazzo. Ma tu non fai nulla, non fai niente, sei nulla. Vai a vedere ma Weinstein, chi è Weinstein secondo te? Vai a vedere su YouTube. Ma non me ne frega niente, Weinstein, chi è Weinstein? Come giudichi il caso Weinstein? Prova a parlargli. È arrivato. È il solito porco ebreo, perché gli ebrei che siano dei malati sessuali non è da adesso. Ma perché adesso? Ma che c'entra? Non è come c'entra? Voglio ricordarti che il signor Charlie Chaplin è dovuto scappare in Inghilterra perché aveva mandato in cattura per pedofilia. Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Imbecille! E l'altro, scusami. Quello che adesso abita a Venezia. Come cazzo si chiama quel regista di merda che ne fa schifo? Chi? Woody Allen. Un altro pedofilo. Ma non abita a Venezia. Abita a New York, non abita a Venezia. Ma che c'entrano gli ebrei? Ma è tutto sbagliato. Ero qui che parlavo, ma non mi sentivate. Ma che c'entrano gli ebrei? Cosa ha fatto con sua figliata a 12 anni? Aveva il porco schifoso. Ma io non ho capito una cosa. Ma questo è pazzo completo. Allora, intanto non sono vicino a Cruciani. Sai dove sono? A New York. Sai dove sono venuto? A New York. Perché volete sapere la realtà? Che Woody Allen sia un porco pedofilo, lo sanno tutti. Ma è stato accusato, dai, su. Non è che è stato condannato. Quindi? Vabbè, ma lascia perdere. Ma secondo te, non sembra normale che uno faccia sesso con una dei 12? No, ma non ho capito. Lui, ma cosa c'entra con quello di cui stiamo discutendo? Ma cosa c'entra? Lui ha detto che gli ebrei sono tutti dei porci maniaci, ha detto. La maggior parte sì. La maggior parte sì. Ma sarebbe come se io dicessi che tutti quelli che stanno a Mantova sono come Mauro da Mantova. Il problema è che... Un momento. Io mi dissocio dai mantovani. Io mi dissocio dai mantovani. Sono loro che si dissociano da te, brutto imbecille ancora in vita. Brutto imbecille ancora in vita. Ancora in vita sei. Basta. Hai vissuto anche troppo. Basta. Brutto imbecille. Adesso sono qui, faccio una grande speculazione internazionale. Ora sono a New York e ti tolgo la pensione da New York. Perché sono qua? Sono qua. Ti tolgo la pensione da New York adesso. Ti tolgo la pensione. Dove? Ma perché caga sotto? Ma perché lo vuoi picchiare? Io non ti voglio frequentare, mi fai schifo. Mi fa schifo tutto. Non voglio neanche, ma neanche vederti a 50 metri di distanza. Nano schifoso, nano orrendo. Tu sei l'orrendo nano. Volevo sapere questo, ma tutta la sua famiglia ha queste tradizioni come le sue? Ma coglione. No, è solo per sapere, è tutta la sua famiglia che l'ha educata in questo modo, insomma, cioè è così. Ascolta, o l'hanno abbandonata? C'è tu che hai bisogno di educazione, brutto imbecille. Ma ti hanno abbandonato da bambino? Ma vai a fare abbandonato. Ma ti hanno tolto le emorroidi al posto delle tonsille in gola a te, non ho capito. Ti hanno messo su un barile, sai perché? Perché adesso cazzo invece di fare un figlio ha cagato uno stronzo. Ma cosa c'entra quello? Sono stronzo. Allora, mentre ero in viaggio per andare dove? Per andare al manicomio? Per andare al Castiglion delle Stiviere? Al manicomio criminale? Per andare al Castiglion delle Stiviere? Al manicomio criminale dove dovresti essere rinchiuso? Il Castiglion delle Stiviere? Ma quale hotel? Senti Mauro, la prossima volta mi devi raccontare le tue peripezie sessuali. Che cosa pensi delle donne? Ma che schifo. Di come vanno trattate le donne. Mi devi raccontare la prossima volta. Cosa fai in albergo? Allora te lo dico io. La donna, quando la guardi negli occhi, che capisci che è una donna che gli piace il sesso, gli dai uno schiaffo, la prendi per i capelli, la sbatti contro il muro, gli stacci i vestiti e te la fai a secco. La donna va trattata così. Caspita, ma è un personaggio pecora, e mentre te la scoppia pecora, gli cosa gli è agghiacciante. È un uomo, è una persona agghiacciante. Fermi tutti, fermi tutti. Cosa hai visto? Ma cosa hai visto, maniaco? Adesso la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Luvolu Muluni, mangia mangia Lumuluni. Giuse, Luvolu Muluni, Ovola Mela. Cruciani, Luvolu Muluni, Ovola Banana. David, Luvolu Muluni, Ovolo Piru. La fruttariana, la fruttariana dei Lumiluni. Non voglio niente io, non voglio niente io. Mi ha chiesto se voglio, io non voglio assolutamente niente. Ma perché non vuoi farti regalare una mela dalla fruttariana? Non ho capito. Ma la parte che mi dà sui nervi, che dice Lumiluni, Lumiluni. Ma cosa? Ma non voglio niente. Tu non, niente. Non sopporti questa. Cioè, quella che non sopporti di più è questa qua o quell'altra, quella dell'Inps? No, quella dell'Inps è imbattibile, diciamo. Quella no, quella dell'Inps è proprio, perché anche fa fatica, respira fatica perché è presa nella no, ma no, non mi piace nessuno dei due. Ma Lumiluni, questa poveretta è la matta. L'altra poi Lumiluni. Oh mamma mia, no. And then along comes Mary. Allora ragazzi, notizie che arrivano da Richard Benson, facciamo partire i nani. Un cordiale buonasera da Nuova York, da David Parenzo. Ci siamo, eh? Eccolo. Li avete visti. Sulle rive del fiume. Allora, notizie che arrivano dall'ospedale. Ecco, no, voglio dirti questo. Il prossimo convegno della Confindustria, ad esempio, faccio questa proposta. Vorrei si aprisse, oltre che con la relazione del presidente Rossi, benissimo, e la chiusura di Boccia, ma sarebbe interessante aprirlo con sta per cominciare il convegno dei giovani. E poi c'è la facciamo un delirio! Sarebbe facciamo una innovazione. Ecco, allora, immaginare, come sapete, sarebbe un'innovazione o no? Beh sì, non so se ben accetta dai piani alti di questa azienda. Vediamo. Beh, allora, perché no? Perché come no? Sapete, Richard Benson è ricoverato all'ospedale, almeno dice lui, Umberto I, da qualche giorno, però lo sapevi, non ti stupire, lo sapevi. No, vedi come dispiace, ci comunica Richard Benson, chiamato anche, comunica non a noi, comunica via internet a tutti i suoi fan. Richard Benson, chiamato anche Iron Man, dopo il ricovero all'ospedale Umberto I, è fuggito alla morte per la 30ª volta. Senti, ha numerosi progetti in programma. Un disco con John Petrucci, chitarrista dei Dream Theater. Un disco con John Macaluso, uno dei migliori batteristi americani. Il progetto si chiama Richard Benson Stone Tiger. No, ma non è Macaluso. Io conosco Emanuele Macaluso. Poi ha fondato un nuovo gruppo con tutti i migliori professionisti romani, che si chiama Richard Benson Axis. Ultimamente è stato contattato da Ligabue e da Vasco Rossi. Proviamo, vediamo che succede, vai. Stringere i denti e andare avanti! Ma che vuol dire? Dai, Richard, su. Sì. Richard? Sì. Oh, finalmente, eccoti qui. Un applauso. Eccolo. Un applauso a Richard. Bravo, Richard. Come andiamo? Mi sembra bene, no? Ho letto da un tuo messaggio. Sì, molto bene. Molto bene. Dove sei? Sempre all'Umberto I? Sì. Ma dice che sei fuggito alla morte per la 30ª volta, così ho letto. Sì, è vero. Beh, cioè, spiegaci un po' questa cosa, se vuoi. Cosa vuol dire? Se hai qualche secondo. Cosa? Se hai qualche secondo, spiegaci un po' cosa significa essere sfuggiti alla morte. Sono sfuggita la morte 30 volte, scusa. No, dico, ma questa volta in che modo sei sfuggita? Ce l'hai fatta rispetto a che cosa? Cosa ti era successo questa volta? E ho avuto un incidente. Hai avuto un incidente grave? Porca miseria. Abbastanza. Ma come, sei caduto? Che hai fatto? No, un incidente... Ok. Automobilistico. Ah, addirittura, un incidente automobilistico. Ma ti sei ferito? Hai qualche cosa di rotto? Perché sei ancora... No, niente di rotto. Sto molto bene. Possiamo tranquillizzare tutti. Sì. Possiamo tranquillizzare tutti i tuoi fan, un sacco di gente che ci ha chiamato in questi giorni chiedendoci di come stavi anche dal punto di vista psicologico, ecco. Anche Esther ci ha detto molto bene. Esther è preoccupata, che dice hai perso un po' la brocca. No, Esther sei è lucido. Ricoverata da un'altra parte. Ma come ricoverata? Pure lei è ricoverata. Ma sei lucido. Io sono lucidissimo. Ma meno male, questo è importante. Ma scusa, Esther che fine ha fatto? Sto per fare un gruppo con John Petrucci, un altro con John Macaluso. Sì, ma sei stato contattato anche da Ligabue, da quello che leggo? Certo, anche da Vasco Rossi. Da Vasco Rossi, ma quando ti hanno chiamato? Dove e quando? Mi hanno chiamato. Ah, ti hanno chiamato in ospedale? Sì. Ah, dunque sei nel pieno della tua attività, diciamo, non sei così messo... No, perché noi abbiamo parlato con Esther, ha detto che stavi messo malissimo, che hai perso la brocca. Appunto. No, non è vero. Lei come sta invece? Lei sono male. Cioè che c'ha? Male di mente. Ah, è depressa, dici? Bene, è che tu però sia ricoverata lei poi Roma sull'Adriatina, in una clinica psichiatrica. Una clinica psichiatrica sull'Adriatina, ma veramente? Quando è che sei ricoverata? È da 2 mesi. Da 2 mesi. Boh, noi l'abbiamo chiamata, sì, sembrava... Mi ha detto che era un po' depressa, effettivamente. Comunque, ma ci ha detto anche che tu l'hai picchiata, non so che hai fatto. Cioè, ma è vero o no questa cosa qua, no? Sì, è vero. Ah, l'hai picchiata? Però mi ridava. Come l'hai picchiata? Scusa, non ho capito. Non va bene. Se col bastone, ma no. Cioè, non ho capito. L'hai picchiata con un bastone? Ma che roba è? Ma come se lo meritava? Scusa, Richard. Ti ho detto che se lo meritava, basta. Ma perché se lo meritava? Che ha fatto? Ma non si fa così, non si picchiano le donne. Certo. Ma non ho capito. Io faccio quello che cazzo mi pare. Adesso ti saluto. Ciao. No, ma aspetta un attimo, Richard, scusami. Richard. Oh, Richard, ti devi spaventare! Ti devi spaventare! Attenzione! Abbiamo quel pezzo in cui nomina Pappalardo? Abbiamo un pezzo su Pappalardo. Non so da chi si rivolge a Pappalardo. Comunque, ragazzi, adesso noi ridiamo, ma questa è una situazione drammatica. Adesso, per carità. No, è drammatica, veramente. Cioè, questa sì, picchia sì. Con un bastone. Che cosa ha detto con un bastone? Col bastone, certo, col bastone. Sulle rive del fiume. Cristiano da Milano, vai. Pronto, Peppe? Dimmi. Ci sei? Ci sono, io ci sto. Sono stato un po' in attesa, allora mi stavo bioccando per quello. No, bioccando, ti mando a fare in culo, perché evidentemente... No. Allora, volevo dire basta con i soloni come l'Oliviero Toscani. Sì. Che vuol dire basta con i soloni, ragazzi? Basta con i soloni. Siamo pieni di palle in Italia di gente che viene sopravvalutata, come Toscani. Perché è sopravvalutato, dici? Sì, sì. Ma perché ha avuto solo della gran fortuna nella vita. Tutti a guardargli dietro sto mega fotografo, a me non sembra poi questo grande artista. È fenomeno. Uno sfigato, ma chi se ne frega di quello che dice lui? Quello che dice lui, appunto, chi se ne frega? Chi se ne frega di quello che dice lui, nel senso di lei che parla, non lui, Toscani. Chi se ne frega del suo giudizio? Ma chi è l'ebanista che sta parlando? Ebanista. Davide, che è fine, può capirlo. Sì, no, ma ho capito anch'io. L'ebanista, sì, ha capito tutto anche lui. Va bene. Ronne Piperno. Mi dica, come dice? David. No, volevo capire, lei ha avuto è una persona felice nella vita, sì, è una persona... Sì, sono solo un po' stanco perché dopo 12 ore di lavoro... Un po' stanco. Certo. Quindi aveva bisogno di sparare aveva bisogno di noi per sparare delle cazzate. Dare aria al cervello, sì. Esatto, quella che fa costantemente. D'accordo, arrivederci, vado a quel paese. Pietro da Brescia. Grazie Davide, ciao. Dai, prego, vaffanculo. Pietro da Brescia. Sì, ciao ragazzi. Ma a un certo punto basta. Mi piace tornare sul discorso di prima, ormai avete cambiato discorso. Sì, comunque, discorso adesivi di Anna Frank allo stadio di Roma. Il discorso adesivo. Sono assolutamente... non sono assolutamente razzista, però ecco c'è una cosa che non mi torna. Quando si sta a parlare c'è qualcosa che succede nei confronti della comunità ebraica, allora... c'è sempre una grandissima cassa di risonanza, interviene il Presidente della Repubblica. E tu dici che sono dei privilegiati alla fine, rispetto ad altri? Ecco, questo era il mio punto di vista, però ecco... No, ma questo volevi dire, non avere paura di dire quello che pensi. Cioè... No, questo è quello che volevo dire, ma era per fare il paragone che quando nello stesso stadio della Lazio, che si sa che i tifosi laziali sono i più razzisti in assoluti, sono più razzisti, non mi pare che i più razzisti. Ma generalmente vengono sempre multati. Sì, io ho capito, ma vai a vedere anche altre curve, altre situazioni, per carità. Certo, non voglio... ecco. Allora... Il discorso però era che quando fanno tutti i colpi nei confronti delle persone nere, i soliti che si sentono, allora? E succede molto spesso rispetto... al razzismo nei confronti degli ebrei, perché non c'è questa grande reazione dalle forze politiche o questa grande reazione? No, ma c'è, non fate... anche, c'è anche in quel caso, ma non mi sembra che ci c'è siano anche dei in quel caso, che facciano... c'è anche in quel caso. Alessio Udine, vai Alessio. Sì, ciao. Dimmi Alessio, dimmi. Oh, dai, dimmi. Ma che bella trasmissione, veramente, me la devo registrare questa, uno meglio dell'altro. In che senso? Allora, è arrivato il fenomeno adesso, è arrivato il fenomeno invece, dai. Grazie. Sentiamo il fenomeno. Dai. Anna Frank, la sua foto è bellissima. Sì. E la voglio dappertutto. Ti con piace? Le magliette della Juventus, con le magliette della Roma, con le magliette di Desigual, dei cartelloni pubblicitari del nostro amico di Lasciamo, prima. Facciamo così, lasciamo stare Anna Frank. Ma perché vuoi? Aspetta, sentiamo, perché la voglio ovunque? Spiegami. La voglio ovunque perché la gente deve ricordare. Sempre, quando passa, quello che è successo. No, ma... altro che la pubblicità della Coca-Cola. Sì, vabbè, d'accordo, però... Ma magari succedesse, ragazzi... però siccome non mi pare il caso, guarda. Purtroppo, devo dire, non mi pare il caso. Il calcio, faccia il calcio. La memoria storica, per fortuna, c'è e basta. I calciatori facessero i calciatori, basta saluti romani, basta politica dentro gli stadi, che non giocassero succede... a pallone e non rompessero le scatole. No, vabbè, Alessio... Che invece succedono piccoli episodi. Ti saluto! Ciao ragazzi, vi mando a fare in culo, vai con tenerezza, ma vi mando a fare in culo che mi sono rotto i coglioni. No, non mi sono rotto i coglioni, resterei altre due ore qui con voi. Parenzo però deve andare a fare le sue gite a New York. No, vado al MoMA, sono le 14:50 ora di New York. Vado al MoMA e stasera vado al giapponese, non dico il nome, se no poi mi dicono che è una marchetta, ma no, vai al giapponese, carissimo. Ricordaci quando vai da Soros, però. Si chiama Nobu. Sì, quando vai da Soros? Quando vai da Soros? Giovedì va da Soros. Ragazzi, ciao. Ciao, domani. ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lei ha ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio, voglio ridere. Sono Richard Benson.